Bene, un caro saluto a tutti i compagni e le compagne di Onda Rossa e degli ascoltatori e le ascoltatrici. A nome del Comitato Carlos Fonseca volevo fare un breve intervento per quanto riguarda la situazione che si sta vivendo in Venezuela dopo l'ennesimo tentativo di colpo di Stato. Come ormai tutti saprete, questo ulteriore tentativo da parte della destra, ma soprattutto dei settori legati agli interessi statunitensi e multinazionali, è fracassato, è fallito miseramente. Il manipolo di golpisti è stato ormai ridotto alla resa. Si sa che Leopoldo Lopez è ormai agli arresti domiciliari da tempo. E altra figura di spicco del gruppo, diciamo, legato appunto a questi interessi stranieri in Venezuela, è ormai profugo sia inizialmente nell'ambasciata cilena, ormai diventata una suite per i vari militari e politici che si sono contraddistinti per questi costanti e continui tentativi di colpi di Stato in Venezuela, e successivamente sembra che si sia rifugiato nell'ambasciata spagnola. Adesso chiaramente avete saputo, immagino che la Spagna, con il nuovo presidente socialista, al di là delle valutazioni generali, si è già dichiarato apertamente contrario al riconoscimento di Guaidó come presidente ad interim del Venezuela. Per cui bisognerà verificare effettivamente quali siano poi alla fine le soluzioni che si prenderanno in questo senso. 25 militari, soprattutto ufficiali, che hanno partecipato al tentativo di colpo di Stato, sono attualmente rifugiati nell'ambasciata brasiliana. Anche qui chiaramente la dimostrazione di come il nuovo presidente Bolsonaro brasiliano stia continuando sulla stessa linea di attacco verticale nei confronti del Venezuela, ma in generale di attacco alla sinistra latinoamericana e chiaramente ai movimenti popolari latinoamericani. E mentre la figura di Guaidó resta a tutti gli effetti fino a questo momento non ci sono elementi particolari, la figura resta ancora uccel di bosco, cioè nel senso è ancora riconosciuto evidentemente come una figura che apparentemente recita ancora una figura, ancora un ruolo istituzionale, ma che gli stessi Stati Uniti, gli stessi una lettura, diciamo così, un pochino sganciata dalle redini istituzionali nordamericane, lo definiscono ormai come un cadavere ambulante che nella realtà serve più, la figura di Guaidó serve più da morto che da vivo. Questa posizione, soprattutto, è legata non soltanto alla figura stessa di Guaidó come persona, come apparente leader dell'opposizione, ma soprattutto come conseguenza di questi costanti fallimenti. Uno, perché alla luce dei fatti, nella operazione di poche ore fa, diciamo così, ha dimostrato che effettivamente non c'è stata nessuna sollevazione popolare, c'è stata manifestazione molto limitata di militanti della destra venezuelana, che è stata praticamente contenuta e respinta sia dalla polizia che da parte dell'esercito già a corso nella zona di Miranda, dove si erano raggruppati i militari golpisti, ma soprattutto perché fondamentalmente questi tentativi di colpo di Stato stanno soltanto dimostrando da una parte l'inefficacia della destra venezuelana in generale, ma sostanzialmente apre gli spiragli classici non più della fantapolitica, nel senso che se qualcuno improvvisamente ucciderà, assassinerà Guaidó, sarà una delle cause che potrebbe scatenare evidentemente intanto una guerra diplomatica, intanto un classico intervento politico militare da parte degli altri stati, ma in particolare chiaramente potrebbe diventare un piccolo eroe che viene sacrificato sull'altare appunto della rivolta contro il regime di Maduro, così come è definito. Quindi in questo senso la realtà che si sta manifestando in queste ore stesse in Venezuela dimostra come effettivamente ci sia veramente poco margine per il riconoscimento di eventuali rivendicazioni politiche e sociali, meno che meno sociali chiaramente, ma sta creando le condizioni appunto di un possibile intervento legato appunto alla sparizione, tra virgolette, dei stessi leader dell'opposizione, per cui appunto a collare chiaramente al regime chavista, scusate, le responsabilità. Al momento sembra che regni una calma apparente. La cosa che ancora è difficile da digerire è la figura di Guaidó, comunque come una figura che, nonostante sia stato presente all'appuntamento dove i militari erano intervenuti per dare l'assalto alla più grande caserma presidenziale, al momento non è stato né arrestato né è stato, o almeno non si sa di denunce particolari, non è stato nemmeno investito direttamente di accuse ulteriori di tentato colpo di Stato. Questo gioco, diciamo, delle parti crea ulteriore confusione, ma evidentemente dimostra pure come Maduro in qualche maniera eviti di creare proprio per proprie mani, diciamo, questo sacrificio umano che in qualche maniera potrebbe essere accollato direttamente a loro, insomma. L'ultimo elemento sono appunto i stessi militari. Sta circolando un video dove i militari che erano stati coinvolti direttamente nell'assalto iniziale esprimono con molta chiarezza il fatto che sono stati ingannati, sono stati mobilitati alle 3 di notte dalle varie caserme, sono andati appunto a caricare casse di armi e così via, ma quando si sono resi conto, già sul posto, che i loro ufficiali davano indicazioni completamente diverse da quelle che inizialmente erano state emanate, si sono ribellati e grazie al buio, grazie alla confusione iniziale e anche all'inizio della presenza di varie figure di spicco della destra venezuelana hanno trovato il modo di fuggire e di entrare e di farsi aprire, diciamo, dalle forze speciali che ormai erano lì presenti alle caserme. Hanno denunciato appunto questo tentativo di inganno e quindi hanno ulteriormente denunciato a chiare note nomi e cognomi e gradi dei vari ufficiali che, come ripeto, si sono ormai rifugiati nell'ambasciata brasiliana. Per concludere una valutazione generale, credo appunto che non ci siano più alibi in questo senso, anche per quello che riguarda chiaramente questa accordata di paesi e di governi latinoamericani che sotto la guida degli Stati Uniti stanno chiaramente giocando alla guerra in qualche maniera, a sgomberare il campo del famoso giardino di casa degli Stati Uniti, cercando di ingraziarsi chiaramente l'attenzione e gli interessi statunitensi. E termino qui questo breve intervento. Ringrazio i compagni e le compagne in ascolto e vi lascio con un caldo saluto.